nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci. E beh, insomma, tutte le strade portano a riconoscere la centralità delle donne in questa fase storica. Qui a nessuna è perfetta, ne parliamo sempre. Ci sono le donne a capo della BCE, penso a Christine Lagarde, c'è una donna a capo della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, una donna è stata appena eletta Presidente della Repubblica in Grecia. Insomma, tutto va in questa direzione, e anche nel mondo della Chiesa ci sono molte rivendicazioni e anche molta attenzione da parte di Papa Francesco, che proprio con la sua prima omelia del 2020 ha voluto riconoscere la centralità della donna e il ruolo che essa deve avere anche nella Chiesa. Tra l'altro sono anche le suore che lo rivendicano. Qualche tempo fa sul Messaggero Franca Giansoldati raccontava di un bel gruppo di suore arrivate da un monastero benedettino del cantone di San Gallo in Svizzera, e si sono presentate alla stampa estera indossando una vistosa mantella arancione e nera sopra l'abito scuro da suora, tutte dalla più giovane cinquantenne alla più anziana 86enne, chiedevano che le donne al sinodo abbiano la facoltà di voto. Come vedete, insomma, è tutto un movimento che si sta sta chiedendo spazio e voce anche nel mondo della Chiesa. Di questo e in generale di quanto questo gran parlare del ruolo delle donne trovi poi reale concretezza, discutiamo oggi. Vorrei capire da un grande comunicatore che cosa viene percepito, qual è la sensazione che si percepisce in Italia rispetto da un lato all'avanzata impetuosa delle donne un po' in tutto il mondo e dall'altro invece alla resistenza che questo si percepisce. E lo chiedo proprio a Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners e tra l'altro professore alla LUIS, autore insieme ad altri di un saggio Comunicazione integrata e Reputation Management di recente pubblicazione. Buona domenica Gianluca Comin. Buona domenica a te e ai radioascoltatori. Beh, è un tema fondamentale sulla quale ci stiamo ormai interrogando e cercando di modificare questa cultura da tempo. L'Italia è molto indietro, non in tutti i settori, per esempio nella presenza delle donne nei consigli di amministrazione siamo tra i paesi più avanzati, grazie soprattutto alla legge Golfo, che ha messo, diciamo così, un obbligo di quota, diciamo, rosa dei consigli di amministrazione. Però nella politica siamo i leader, solo la Meloni è presente, no? Donna leader tra i maggiori partiti dell'agone politico. Hai citato alcune donne in posizioni di rilievo, aggiungerei la Perrazzelli, vice direttrice della Banca d'Italia, e la prima donna anche, la Gabriella Palmieri Sanduli, a guidare l'Avvocatura Generale dello Stato, però certamente casi eccezionali che non mostrano un cambiamento di indirizzo e culturale. Ci dobbiamo spiegare perché siamo più vicini forse all'Egitto che ormai alla Grecia, per non parlare poi della Finlandia o dell'Unione Europea, di cui hai citato alcune rappresentanti autorevoli delle posizioni apicali, perché poi si tratta di questo, perché di donne impegnate nel lavoro a diversi ruoli, anche dirigenziali, ce ne sono tante, ma certamente i ruoli apicali sono quelli che contano e su cui lo spunto, la cultura e la sensibilità femminile possono anche portare un valore fortemente. Qual è la tua risposta? All'uomo. Che risposta dai a questa domanda? Perché? Perché c'è resistenza ancora in Italia? Perché c'è insicurezza da parte di quanti, magari uomini, non vogliono dividere la torta che si va restringendo, la torta del potere? Ma il nostro paese è un po' come anche la Spagna, in cui i gruppi di potere sono molto ristretti, no? Ce ne sono diversi, sono i finanziari, quelli politici, quelli imprenditoriali, ma sono molto ristretti, in cui la cooptazione avviene per amicizie, spesso per relazione, e quindi è più facile tra uomini, o comunque più facile nella continuità. Le donne, se riescono a entrare, entrano con la mannaia e sfondano la porta, non è difficile che riescano a entrare per cooptazione, e quindi va vinto questo elemento. C'è un altro aspetto, secondo me, da osservatore esterno, io partecipo a molti incontri di associazioni, insomma, che puntano a una valorizzazione del ruolo femminile nella società. Spesso le donne non aiutano le donne, mentre gli uomini fanno le cordate, ed è tipico anche nelle aziende. Le donne che arrivano in posizioni di vertice, forse anche per pudore, o perché è giusto che sia così, non fanno cordate di donne, e quindi non si trascinano. Perché non si fidano le une delle altre, c'è questa mancanza di fiducia tra donne, oltre che... Questo, ma anche secondo me, perché vogliono dimostrare che si può arrivare senza usare i mezzi che usano i maschi, cioè appunto la filiazione e la cordata quasi come una congregazione religiosa, no? Quindi c'è, da un lato, come dici tu, forse una maggiore diffidenza tra di loro, ma anche appunto la volontà di dire: io non devo fare la cordata tra donne per valorizzare le donne, si dovrebbero valorizzare perché vengano riconosciute nella loro competenza dagli altri, insomma. L'ultima cosa che vorrei chiederti, tu hai tra i clienti di Comine Partners grandissime aziende e anche soggetti, anche appunto individui. Quando un'azienda con al vertice degli uomini ti chiede una consulenza, lo fa con domande, criteri diversi da quando ce ne sono, sono poche, ma c'è una donna al vertice, cioè c'è una differenza nelle richieste di un cliente uomo e di una cliente donna? Allora, premetto che oggi abbiamo molte donne alle presidenze di grandi aziende o amministratori anche di aziende, forse non le più grandi, ma insomma anche rilevanti. Ti direi sì e no, nel senso che una donna amministratore, ne abbiamo alcune tra i nostri clienti, le prime cose che ti chiedono sono le stesse cose che ti chiedono gli uomini, cioè risolvere dei problemi di efficienza piuttosto che di immagine o di reputazione, perché sono esigenze aziendali, cioè hanno le stesse, come dire, capacità manageriali e visione manageriale che può avere un uomo. Però c'è un quid in più, nel senso che la donna, soprattutto a una società come la nostra, che si occupa di soft skill, no? di cose leggere che in qualche modo incidono sulle parti intangibili, non tangibili del valore dell'azienda, ci spingono molto a valorizzare le emozioni, a valorizzare la relazione con i clienti o con gli stakeholder, quindi a un approccio, diciamo, più esteso, ampio, inclusivo rispetto magari agli uomini, che mirano più a ottenere il risultato immediato senza consolidare magari a lungo termine la relazione. Quindi questa sensibilità all'inclusione, certamente più la registro di più nei manager donna. Da comunicatore, e questa è davvero l'ultima domanda, qual è stato secondo te il messaggio che ha perforato di più l'immaginazione dell'opinione pubblica, che ha fatto di più e meglio per le donne, dal Me Too alla nomina appunto delle donne che ho citato prima in Europa, alla campagna elettorale che vide una donna sconfitta, Hillary Clinton? Qual è stato in questi anni il messaggio più forte che ha fatto avanzare di più l'immagine della necessità di una parità di genere condivisa? Ma guarda, sono tanti, ma io voglio dirti invece quello che sarebbe veramente il messaggio dirompente, che è un tema di cui si sta discutendo anche queste settimane all'interno e fuori della Chiesa, e cioè l'accesso alle donne alla sacramento, cioè le donne sacerdote, alla gestione, diciamo così, della messa. Quindi secondo me, se Papa Francesco aprisse un tema veramente forte su questo qua, non solo in Italia ma in tutto il mondo, si affermerebbe, diciamo così, veramente una parità. Dopodiché tutto va bene, cioè il MeToo è la protesta, la nomina della Cartabia è voglio arrivare anch'io, e quindi l'emulazione, posso farcela, sono tutti elementi che concorrono a rafforzare la motivazione e a consolidare un cambio culturale che è fondamentale, che nelle nuove generazioni c'è. Cioè, noi stiamo in una fase di transizione che probabilmente fra 5 anni, 10 anni questa trasmissione non avrebbe senso, perché parleremo di qualcosa che non esiste, perché è già risolto, no? Però lo speriamo. Siamo nella fase di transizione, una grande botta, diciamo così, all'opinione pubblica la darebbe il Papa. Chissà. Vedremo. Grazie a Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners, che è stato con noi e che ha appena pubblicato il libro del quale vi dicevo, tra l'altro con una dedica ai suoi tre figli, di cui appunto una, Ginevra, è appunto una ragazza, dice che gli danno molti stimoli. Non ho dubbi sul fatto che le nuove generazioni stimolino moltissimo i genitori, anche quando fanno comunicazione. Ed è quella che comanda in casa, come puoi immaginare. Grazie Gianluca Comin, buona domenica. Grazie a voi. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno. Ogni domenica nessuna è perfetta e ogni domenica la nostra Sunday Girl. Bentornata, buona domenica Serena Dandini, che è un piacere ritrovare qui con noi, con le nostre amiche di Nessuna è Perfetta, ed è stato un piacere ritrovarti con gli Stati Generali, di cui tutti noi siamo stati appassionati spettatori. Stati Generali su Rai 3, un grande successo in prima serata. Come cambia parlare in TV anche a molte spettatrici? Come sono cambiate, secondo te, se sono cambiate le spettatrici? Ma guarda, intanto ci sono delle cose, ahimè, come che sono sempre le stesse, per cui sono alcuni sketch anche della TV delle ragazze di 30 anni fa che, rimandati in onda paro, come si direbbe, non fanno una piega, perché purtroppo ci sono delle cose che, no? Sono sempre le stesse, o cambiano lentamente, diciamo, in maniera ottimistica. Però poi invece c'è una nuova generazione di ragazze molto sveglie e attente e curiose, alle quali ci rivolgiamo, anche perché lo vedo poi dai feedback dei Twitter, adesso già essere tutti moderni, cara Maria, tu lo sai meglio di me. Certo. Che invece sono molto evolute, questo è un piacere per noi ragazze, diciamo, più grandi. Qualcosa abbiamo seminato, dai, ecco, dobbiamo essere positive. Cerchiamo assolutamente di esserlo. Il ritorno sugli schermi passa anche poi per una riflessione su quello che stiamo vivendo come donne italiane. Ci sono stati dei bei segnali, presidente della Corte Costituzionale, una donna, Marta Cartabia, la prima donna capo di una procura importante. Per 9 mesi però, ricordo di certo. Sì, lo so, però vabbè. Però per esempio per un tempo molto più lungo la nuova capa della procura di Torino è una donna e anche nel mondo della Chiesa ci sono molte rivendicazioni e anche molta attenzione da parte di Papa Francesco, che proprio con la sua prima omelia del 2020 ha voluto riconoscere la centralità della donna e esatto. Insomma, i segnali positivi ci sono, ma tu come la vedi obiettivamente, anche come dire, avendo tu fatto tanto con il teatro, con la scrittura, col catalogo delle donne valorose? Ma guarda, io la vedo sempre appunto in positivo, perché non si può pensare di tornare indietro, insomma, da Darwin in poi l'evoluzione della specie dovrebbe insegnarci che anche se sono dei passi a volte piccoli, a volte imperceptibili, però sicuramente ci sono. Ci sono ogni tanto nella storia dei tentativi così di tornare indietro, no? Però credo che ormai appunto le nuove ragazze, come dicevamo, sono belle, determinate, difficilmente si faranno togliere i diritti che, diciamo, no? Le loro nonne hanno conquistato, per cui la vedo in positivo. E dentro il potere? Dentro il potere, sai, poi voglio dire, la storia è lunga. Adesso dov'era? In Islanda, che hanno fatto un premier. Oh, sì. Una donna figlia di 34 donna, anni, una premier di 34 anni. Che ha a capo stavolta di 5 partiti guidati da 5 donne, quindi siamo sulla fantascienza distopica, diciamo, no? Rispetto a noi, perché poi invece siamo costretti ad assistere a questi teatrini, no? Di tutti i maschietti, una specie di teatro dei burattini, ormai conosciamo, come dire, i personaggi. Secondo te è giusto chiedere agli uomini che partecipano, per esempio, ai tanti convegni ai quali vengono invitati, di sottrarsi a questi convegni se non c'è almeno una donna invitata? Questo è un tema che sto dibattendo con molti amici. Ci sono un sacco di convegni importanti, più importanti, poi vedi l'elenco, sono tutti uomini, compreso il conduttore. Farebbero bene gli invitati a dire: scusate, ma invitate almeno una, due donne? Guarda, invece è un bel tema, sarebbe una provocazione interessante, perché questo, come diciamo sempre, è una rivoluzione che si vince insieme, no? È evidente, perché se no non si va da nessuna parte, quindi gli uomini dovrebbero fare la loro parte e questo sarebbe molto interessante. C'era un articolo, mi sembra, di Chiara Saraceno che diceva, parlava di, basta parlare di quote rosa, parliamo di diminuire le quote azzurre, perché no, che è anche un modo, le parole hanno un senso, un peso, no? Una profondità, dover pietire sì, la presenza, scusate, ci saremmo anche noi, no, sì. È fastidiosissimo, come poi per esempio dobbiamo uscire, ma devono uscirne anche gli uomini, essenzialmente dalla sindrome che io chiamo la sindrome di Ginger Rogers, no? Che per essere accettata tu devi fare tutto quello che fa Fred Astaire, ma sui tacchi all'indietro. Sì. Cioè, mi capito? Anche questo. No, basta. Anche questo no. Per qualche tempo le nostre figlie, e so che tu ne hai una, Adele, regista e sceneggiatrice di documentari proprio su temi che riguardano le donne, comunque per qualche tempo le nuove generazioni ci hanno detto, parlo come mamma, ma no, ma figurati con questa storia del femminismo, noi ormai non abbiamo assolutamente problemi nel veder riconosciuta la nostra parità. Questo magari può essere vero in alcuni settori, è vero sicuramente all'estero, eccetera, ma possiamo dire che è vero che ecco. La parola femminismo era un talismano ancora importante, no? Scusami, ti ho interrotto. No, dico, la tua impressione è che anche le trentenni più o meno si ritrovino una serie di problemi che abbiamo ben conosciuto noi molti anni fa? Ma sì, perché poi sai, noi mi considero fortunato di non essere vissuto proprio nell'era dei social, poi questo perché ognuno si becca l'epoca sua, no? Mm-hmm. C'è poco da fare, perché comunque penso che sia faticoso, specialmente nella fase della crescita, adolescenza, avere questo questa piazza virtuale che ti giudica in continuazione, per cui anche lì ci sono, sui social c'è un sessismo mostruoso, no? E quindi è uno strumento che interessante, naturalmente importantissimo, ma anche delicato e pericoloso può essere. Quindi io credo che le ragazze abbiano in qualche modo una difficoltà, e infatti questa parola femminismo che tu nominavi, che per a volte ogni tanto diventa un tabù, come dire no basta con questo femminismo, come se fosse, in realtà è una parola bellissima perché significa parità, che va bene per gli uomini e per le donne, come dire, e quindi credo che ne abbiano ancora molto bisogno. C'è stato insegnato, no, nel tempo, ma basta una battuta ironica, un sorriso per smontare il macismo di un collega. Ma è davvero così? Una risata vi seppellirà, non ha funzionato. Non ha funzionato una risata vi seppellirà. Però devo dire che l'ironia e soprattutto l'autoironia è una, diciamo, delle prime lezioni della vita. Non so se con i tuoi figli ugualmente controlli il grado di ironia, che è molto importante perché comunque è una forma di, anche che ti aiuta a sopravvivere meglio. Però poi dipende sempre da chi le fa le battute e come le fa, perché è sempre pericoloso. Io faccio questo lavoro, no? Per cui certo, molta attenzione. Nel senso che si scambia per ironia tantissime cose, molte cose vengono scambiate per ironia, no? Anche i politici, quando si mandano quei tweet che sono in realtà propaganda o insulti, dicono ma era ironia, capito? Quindi è molto delicata la faccenda. Anche i manifesti negli anni 50, ti ricordi quelli delle campagne elettorali, cioè ironiche, beh, ironiche fino a un certo punto, hai capito? C'è una sottile, ma non neanche tanto sottile. Sì, bisogna dire anche che spesso la battuta contro magari una collega, che ne so, sovrappeso, diciamo no ma si scherza, però si scherza, però può ferire moltissimo. Poi appunto dipende sempre come, che contesto e chi la fa, no? Cioè Woody Allen ce l'ha insegnato, lui faceva le battute nei confronti della cultura ebraica, ma fatte da lui, no, per visti, certo, avevano un senso, cioè, quindi è molto importante sempre contestualizzare, no? Se no si diventa molto superficiali, va bene tutto. Siccome noi ci consideriamo qui a Nessuno è Perfetto, in fondo un po' una comunità di amiche e di amici, da 5 anni siamo insieme ogni domenica, contiamo sulla tua amicizia, Serena Dandini. Ma ce l'avete, non a caso sono qui. Grazie, ciao. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo a Nessuna è Perfetta. Vi ricordo il nostro numero per i vostri messaggi vocali, 828 12 12, e do il benvenuto ad Anna Maria Tarantola, già vice direttore generale della Banca d'Italia, presidente della RAI, attualmente presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Presidente, buona domenica. Buongiorno. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, questa è una puntata che cerca di fare un po' di chiarezza sul dibattito che c'è, e non da ora, nella Chiesa sul ruolo della donna. Il primo intervento importante di Papa Bergoglio nel 2020 è stato proprio incentrato sul ruolo della donna, sulla sua centralità nel mondo. Il 1 gennaio scorso, infatti, Papa Francesco ha ribadito con forza il no allo sfruttamento del corpo delle donne e alle umiliazioni che in tante parti del mondo, ma non escluso anche nel mondo occidentale, le donne continuano a subire. E nei giorni successivi poi ha nominato per la prima volta una donna, Francesca Di Giovanni, sottosegretaria dello Stato Vaticano. Le chiedo, nel suo ruolo appunto di presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, presidente Tarantola, che cosa si sta muovendo sotto il profilo dell'attenzione al ruolo della donna nel mondo della Chiesa? Penso che l'apporto che sta dando Papa Francesco all'attenzione al ruolo della donna sia veramente significativo e fondamentale. Lei ha citato l'intervento che lui ha fatto nella sua prima omelia del 2020. Mi piace ricordare che questa omelia è quasi un vademecum di ciò che va fatto e di ciò che non va fatto per il rispetto, la protezione e la valorizzazione della donna. Le ricordo 5 punti molto rapidamente. Lui parla della centralità della donna, dice: senza la donna non c'è salvezza. Parla della violenza sulle donne, che sono offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi, a sopprimere la vita che portano in grembo come qualcosa che non va assolutamente fatto. Parla dell'uso distorto del corpo della donna e cito proprio: quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. E parla poi di una cosa importantissima per noi donne, perché ci siamo battute molto su questo, e cioè la necessità di inserire la donna nei processi decisionali. E anche qua cito puntualmente quello che ha detto Papa Francesco. Lui dice: la donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali, perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si trova più unito e più in pace. Ed è vero, in molti casi è così. Abbiamo avuto casi recenti anche, no? Della Ursula von der Leyen, che si è messa poi a discutere con Trump e ha ottenuto una mediazione sui dazi. E anche Angela Merkel per la Libia. Quindi entrambi hanno attivato che cosa? In modo molto pragmatico e molto risoluto forme di mediazione anziché conflitti. Devo dire, Presidente, che mentre Papa Francesco queste cose le capisce bene, ai vertici del potere in Italia, parliamo di Italia perché poi degli altri paesi è facile parlare senza conoscere nel dettaglio le cose, in Italia le conosciamo un po' meglio, ma in Italia ci sono delle forti resistenze, cioè a parole si dice: certo, conviene avere delle donne nei posti di potere perché la diversità è un valore, ma poi in realtà le cordate sono maschili. E c'è molta da un lato diffidenza e dall'altra la sensazione che cedendo un pezzetto di potere poi ne rimanga di meno per chi il potere ce l'ha. Questa è la dimostrazione che, nonostante alcuni passi positivi siano stati comunque fatti, il cammino è ancora lungo. Il cammino è ancora lungo e non dobbiamo allentare l'attenzione, cioè noi donne dobbiamo veramente fare squadra. Qualche volta non la facciamo, e cogliere tutte le occasioni come questa di Papa Francesco, forse per anche autorinforzarci in questo cammino, senza conflitto ma attraverso proprio una mediazione. Mi piace anche un'altra frase, mi permetta di ricordarla, perché lui per esempio dice che la donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell'intera società, però attraverso un'alleanza tra uomo e donna. Questa è l'udienza che lui ha fatto il 5 ottobre del 2017 alla Pontificia Accademia della Vita. Penso che è bellissimo, cioè un'alleanza tra uomo e donna affinché la donna possa prendere nelle sue mani la regia dell'intera società. Sembra una contraddizione in termini, ma se lei ci ragiona non è così. Ci faccia capire perché non è così. Io ne sono convinta, però magari ci sono uomini che, ripeto, credono poco all'alleanza tra uomo e donna, non ne vedono i vantaggi positivi per tutti. Aiutiamo chi ha questa diffidenza a sentire anche l'altra campana, poi uno rimane della stessa idea, per carità, c'è libertà di pensiero in questo paese. Certo. Ma io credo questo, cioè se noi lavoriamo insieme siamo due parti del mondo, no? Siamo uomini e donne, cioè ci siamo il 50-50% più o meno, insomma, diciamo, no? Abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo sensibilità diverse, abbiamo pensieri diversi. Se lavoriamo insieme, questo insieme, questa alleanza di pensiero, di emozioni, di competenze, proprio di visioni anche, mi lasci usare questa parola un po' difficile, i risultati ce lo dicono là dove siamo riusciti a farlo in qualche ambiente, i risultati sono decisamente migliori. Cioè, è la realtà che ce lo sta dicendo. Pensi che ci sono delle società di gidanter che stanno sempre più cercando, sia nelle donne sia negli uomini, le caratteristiche femminili, perché il mondo di oggi è un mondo estremamente complesso, velocissimo, con tantissime caratteristiche difficili da capire e da interpretare. Avere due visioni, una visione diciamo più deterministica, che è più portata ad assumere il rischio, ad assumere immediatamente determinate decisioni, un'altra un pochino più pacata, più empatica, che vede di più alla lunga gli effetti di lungo periodo. Secondo lei non dovremmo essere tutti d'accordo che fare un'alleanza? Io penso proprio meglio tutti quanti. Io penso proprio di sì. Senta, presidente Tarantola, nelle settimane scorse si è parlato molto della questione del celibato per i sacerdoti e c'è chi dice che l'elemento cardine, la chiave di volta della parità tra uomo e donna ci sarà vistosamente solo quando le donne potranno avere accesso al sacerdozio. Lei che ne pensa? Non ho effettivamente una conoscenza della situazione della Chiesa su questo piano per poter dare una mia opinione al riguardo, però io ho solo in mente che sicuramente c'è una maggiore attenzione della Chiesa verso le donne e ce l'ha sicuramente il Santo Padre, perché ricordiamoci che fino dal 3 aprile del 2013, erano 3 settimane dopo la sua elezione, lui nella seconda udienza generale ha affermato che le testimoni della resurrezione sono le donne, e dice il Papa che parla a braccio, e questo è bello, e questa è un po' la missione della donna. E poi sempre nel 2013 dice: una chiesa senza le donne come il collegio apostolico senza Maria, la donna è femminile, è sposa, è madre. Quindi insomma penso che ci sia all'interno della Chiesa, sulla spinta del Santo Padre, che poi ha fatto tantissimi altri interventi nel 2013, nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017, costantemente tornato, ci sia una maggiore attenzione verso il ruolo della donna nella Chiesa. Poi dove questo porterà, Lo vedremo a breve. Senta, le voglio fare un'ultima domanda su un ruolo che lei ha svolto, a mio modesto avviso, in maniera splendida, che è quella di presidente della RAI. E come presidente della RAI lei intervenne anche per riequilibrare quello che era stato negli anni precedenti uno squilibrio anche dell'immagine della donna mostrata nei programmi televisivi per anni, persino il servizio pubblico, la RAI, mandava in onda signorine, signore anche di una certa età, molto poco vestite, e anche in orari in cui ci sono i bambini, alle 2 del pomeriggio, eccetera. Quanto lei ha conosciuto quel mondo, quanto c'è di cinismo maschile, no? Nel senso che si sa che si mette una donna seminuda in TV e poi magari il telespettatore si ferma, no? Ho appena visto un film dedicato allo scandalo Fox, Roger Ailey, che è stato il padre padrone di Fox per tanti anni negli Stati Uniti, e scandalo poi è emerso perché alcune giornaliste hanno denunciato di aver subito delle pressioni anche sessuali da parte del loro potentissimo boss. E c'è una frase che mi ha colpito: l'attore che recita la parte di Roger Ailey dice togliete l'inquadratura sul primo piano, fate vedere le gambe di quella giornalista, perché così, insomma, il telespettatore si ferma. Allora, quanto c'è del cinismo dei maschi che hanno il potere di decidere, no, nelle televisioni, e quanto c'è di passiva accettazione da parte delle donne che ci stanno pur di arrivare, pur di fare carriera? Guardi, un po' di cinismo c'è, io per esempio avevo osservato che questa cosa che lei dice è molto vera, anche, diciamo, delle cosiddette, mi scusi il termine, a me non piace, ma lo uso perché viene usato, delle vallette, tra virgolette, per esempio di riprenderle dal basso verso l'alto. Mm. Questo c'è e c'era, perlomeno c'era, e ho visto qualche volta ancora adesso che c'è. Quindi questo uso del corpo della donna per attirare l'attenzione è una cosa abbastanza diffusa. Devo dirle che è un fatto culturale molto molto diffuso, questo fatto di usare un po' il corpo della donna come un oggetto. E a me spiaceva molto questo, perché essendo madre, essendo nonna e avendo insegnato l'università per tanto tempo, il collegamento con le ragazze era molto intenso. Alle ragazze noi non dobbiamo dare il messaggio se sei bella sarai importante, noi dobbiamo dare il messaggio se sei una persona consapevole, con i tuoi talenti, con le tue competenze, con le tue capacità, sarai, potrai avere successo, potrai realizzare i tuoi sogni e le tue aspettative. Se sei bella è un elemento in più, non è l'elemento fondante. No, è per questo che c'è stata molta polemica sulle parole pronunciate dal conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, che, presentando in conferenza stampa la nuova edizione di Sanremo, insisteva molto sulla bellezza delle sue partner, come se fosse oggi nel 2020 l'elemento centrale, no, dell'essere lì sul palco. Questo ha dato molto fastidio, io personalmente mi sono molto arrabbiata. Sì, no, è il messaggio che si dà, e questo messaggio lo si dà anche proprio attraverso le immagini, quindi non solo attraverso le parole, che sono importantissime, ma anche le immagini, quindi come tu rappresenti la donna, la rappresentazione è anche immagine, e quindi bisogna stare attenti, insomma. Io effettivamente su questo ho cercato di lavorare, insomma, in Rai, dare un'immagine della donna che sia veramente l'immagine concreta di quello che noi siamo, di quello che noi facciamo, di quello che noi, dei contributi che possiamo dare. La bellezza è un di più, cioè è una cosa molto importante, ma non è l'obiettivo, penso almeno. Non è il valore in base al quale... Siete belle per quello che siete, poi cercate di rappresentare, cioè di far uscire da voi stesse quelle che sono le vostre capacità, quello che si chiamano i talenti. Ma in questi... Altrimenti è una forma di discriminazione. Ma lo è, infatti, ma in questi mesi qualcuno dalla RAI l'ha mai chiamata per chiederle un consiglio su come fare a non far arrivare questo messaggio sbagliato alle nuove generazioni? No, mai. Mai. No, non si chiedono consigli a chi può darne. Che uno ha lasciato un ruolo, basta. Cioè, è un fatto normale, questo, cioè, voglio dire, esci chiuso, ci sono altre persone, ci sono altre. E lei ha una nuova... Va bene così, certo. È la normalità. E ha una nuova meravigliosa avventura, che è quella appunto di presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. È una sfida di non poco conto, devo dire. Grazie. Di portare nel mondo, diffondere nel mondo la dottrina sociale della Chiesa. Molti non sanno neppure cos'è. Noi ne abbiamo già parlato con lei qui e torneremo a farlo quando vorrà. Buona domenica alla Presidente Anna Maria Tarantola, che è stata ancora una volta con noi a Nessuno è Perfetta. Grazie. Grazie a lei e buona domenica a tutti. Un attimo di attenzione, una comunicazione dalla vostra salutare ossessione quotidiana. Sono Nicoletta Carbone, ho una proposta per voi. Iniziamo insieme la giornata con obiettivo salute risveglio alle 6:15. Poi alle 12, sempre dopo il GR, vi racconto le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. E subito dopo vi aspetto in diretta Facebook ogni giorno con un esperto a disposizione per parlare della nostra salute e avere indicazioni e consigli. Ci state? Allora mettetemi in agenda dal lunedì al venerdì, 3 appuntamenti quotidiani da non perdere. Perché? Perché la salute viene parlando. La bicicletta è una fabbrica di buon umore ed è un'ottima scusa per fare amicizie. In bicicletta ci si dà sempre del tu. La bicicletta fa un po' ritornare i bambini, ci riporta un po' alla nostra essenza. Devi accettare il passo che lei ti detta, il passo che il tuo corpo, il tuo fisico, la tua mente in quel momento possono darti. Ci sei tu, la tua sfida, dove arrivi te lo sei sudato. Qualunque sia il vostro ritmo o la vostra meta, c'è sempre una bici adatta, un itinerario da scoprire, un'occasione per mettersi alla prova o per tornare bambini. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto ogni domenica dopo le 16 con A Ruota Libera su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte, 828 12 12, fateci sapere cosa pensate di quello che avete ascoltato in questa puntata, l'intervento del comunicatore Gianluca Comin, l'intervento di Elena Sofia Ricci, con la quale abbiamo parlato anche di donne spettacolo, quello che ci ha detto l'ex presidente della RAI e oggi presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontificia Anna Maria Tarantola. E invece noi vi facciamo sentire quello che ci avete detto voi della puntata di domenica scorsa dedicata al mestiere più difficile del mondo, quello dei genitori, la puntata con Paola Cortellesi, tra l'altro, e c'era anche l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito. Gentile combattente giornalista, la domenica la seguo pedalando in bicicletta. A proposito di film e figli, volevo segnalarle il bellissimo film che ho appena visto ieri, dal titolo Sorry, We Miss You. Argomento principale di questo film è il lavoro disumano e schiavizzante di coloro che recapitano tutti i pacchi che vengono ordinati online. Anch'io l'ho fatto in passato e mi riprometto di farlo il meno possibile in futuro. Ma di rimando si parla anche della difficoltà di tirare sui figli, anche all'interno di una bellissima famiglia che trasuda amore. La seguo sempre. Saluti e buona domenica. Buongiorno Maria, mia moglie ed io abbiamo avuto un nostro secondo figlio a 3 anni di distanza dal primo. La cosa che non ci aspettavamo affatto era che questo secondo arrivo ha stravolto molto di più le nostre vite, sia individuali che soprattutto la nostra vita comune, perché se per certi aspetti l'esperienza del primo figlio ci ha aiutato ad affrontare e a risolvere in maniera più agevole alcuni problemi, perché eravamo già esperti, l'avevamo già affrontati con il primo, dall'altro ci siamo trovati a fronteggiare questi problemi dovendo comunque continuare a pensare anche al primo. Quindi da un punto di vista sia organizzativo, logistico, è stato sicuramente più importante l'arrivo del secondo figlio. Grazie, buona domenica a tutti. Bene, continuate a lasciarci i vostri messaggi 828 12 12, sapete che mi fa un sacco piacere ascoltarli e farveli sentire dopo. Però voglio, come sempre, anche in una puntata in cui abbiamo affrontato un tema di qualche spessore, com'è il fatto che di donne si parli sempre di più, la comunicazione è sempre più concentrata su loro. Papa Francesco ha cominciato il 2020 con un'omelia dedicata alle donne, ma poi ci sono anche i lati opposti della medaglia. E nel lasciarci, come sempre, sorridiamo insieme. Sorridiamo con un'amica di Nessuna è Perfetta, con Lella Costa, che a proposito di donne che sanno stare un passo indietro rispetto al proprio uomo, la vede così. Anche in Italia, le donne che hanno una qualche visibilità, che hanno potere o comunque che sono famose di successo, non c'è intervista in cui non gli chiedano: ma lei come fa a conciliare il lavoro e la famiglia? Agli uomini non lo chiedono mai, anche perché gli uomini ignorano che quello sia un problema, conciliare il lavoro e la famiglia. Ma quando mai? Cioè, conciliare? Non lo sanno, non fa parte del loro universo di riferimento, no? Poverini, perché destarli? Ah, qualche anno fa andò moltissimo sui giornali, sulle riviste, anche in televisione, questa vicenda emblematica e sintomatica di un noto imprenditore italiano, marito di una ancor più nota imprenditrice italiana, che a un certo punto aveva fatto la grande scelta. Aveva lasciato la moglie a lavorare, era stato lui a casa con i figli. E tutti a dire: ma che meraviglia, che bravo. Io ho sempre avuto il sospetto che fosse semplicemente perché era lei, era più brava di lui, e quindi il mercato richiedeva più lei di lui. Ma comunque, quello che non ci hanno raccontato è come è andata a finire la storia. È andata a finire che lui ha mollato moglie e figli, che già è brutto, ed è scappato con la babysitter delle creature. E infatti la ormai ex consorte, che me l'ha raccontato un po' di tempo dopo, mi ha detto: sai, è stata molto dura, molto pesante dal punto di vista sentimentale, ma la cosa grave è che mi ha portato via la tata, perché un marito lo sostituisci, ma la babysitter dei figli è molto più difficile. E quindi il concetto è che noi stiamo sempre un passo indietro. Vi ricordate? Una volta il luogo comune era: dietro ogni grande uomo c'è una donna che soffre in silenzio. E vabbè. Poi con l'avvento del femminismo, comunque col passare degli anni, la frase è diventata: dietro, sempre dietro, non accanto, sempre dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Secondo me la più attendibile versione contemporanea è: dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta, che non si capacita, dice: ma com'è possibile? Lo prendono sul serio, se la bevono, ma no! Eccoci, Nessuna è perfetta, finisce qui questa domenica. Io vi aspetto, se vorrete, domani mattina alle 8:20 con 24 Mattino insieme a Simone Spezia. E intanto buona domenica, e mi raccomando, niente multitasking che fa male al cervello, almeno la domenica una cosa sola, facciamola bene. Ciao!